Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi ho proprio bisogno di voi perché dovete aiutarmi a cercare e a capire dove si è nascosta la gentilezza. Insomma, dov'è finita? Durezze, sguardi torvi, commenti secchi hanno preso il posto dei sorrisi, degli sguardi benevoli, delle battute cordiali. Allora io vi invito ad aderire ad una pacifica crociata contro l'esercito dei musoni o degli arrabbiati cronici. Le iscrizioni sono libere, gratuite. Per partecipare basta chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 e proporre un buon motivo o una ricetta per riscoprire la gentilezza e direi per liberarla dal sospetto e dalla diffidenza che forse in questi tempi la tengono prigioniera. Allora io credo sinceramente che basti poco e che alla fine sarà molto piacevole restare contagiati dalla sua benefica energia. Lo affermano anche i risultati di numerosi studi, come ad esempio quello appena pubblicato dall'Università di San Diego. Le buone azioni sono contagiose, perché il fatto di beneficiare di una buona azione gratuita ci induce a fare lo stesso con altre persone, anche se non le conosciamo, e la gentilezza così si propaga proprio a macchia d'olio tra perfetti sconosciuti, con un effetto moltiplicatore. Ogni quanto pensate alle cose che accadono fuori di questa città. Bene, non siamo ancora pensatori globali, ma perché non lo siamo? Perché abbiamo 10 anni. Giusto rilievo, ti chiami? Trevor. Forse Trevor ha assolutamente ragione, perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopotutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Eppure vi guardate intorno e a voi non piace il mondo com'è. E se il mondo è un'enorme delusione? Siamo fregati! A meno che non prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete via facendole finire per terra sulle chiappe. E potete cominciare a farlo oggi. Questo è il vostro compito. Questo sono io e queste sono 3 persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante, una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro e loro la fanno per altre 3 persone. Siamo a 9 e aggiungo 3 a ognuno. Cos'è passare il favore? Un sogno per domani, film del 2000 diretto da Mimi Leder, ispirato al libro La formula del cuore, Pay It Forward, di Catherine Ryan Hyde con Kevin Spacey e Helen Hunt. Un film bellissimo che ci invita a riflettere sulla gentilezza e in linea con noi abbiamo il professor Massimiliano Oliveri, professore di neuroscienze presso l'Università di Palermo. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Verrebbe da chiedere, dove è finita? L'abbiamo persa o invece non l'abbiamo imparata? Professore. Beh, in realtà si potrebbe dire che l'abbiamo persa, perché come tutte le emozioni anche la gentilezza nasce nei circuiti del cervello, per cui possiamo considerarla innata, anche se si può apprendere con l'esperienza e migliorare, diciamo così, l'espressione di questo sentimento. La gentilezza, si dice una persona gentile d'animo, in realtà più che nel cuore nasce nel cervello, quindi. Sì, nasce nel cervello, in particolare in regioni dell'emisfero destro del cervello, però il cuore, come il resto del corpo, dalla pancia alla pelle ai muscoli, gioca un ruolo importante perché contribuisce con le sue reazioni all'espressione esterna della gentilezza, quella che possiamo misurare con un sorriso, con gli atteggiamenti del corpo e con variazioni anche della frequenza cardiaca. Professore, se lei dovesse trovare 3 aggettivi per connotare questo sentimento, lei quali sceglierebbe? Vediamo se siamo d'accordo. Dunque, io sceglierei spaziale, tollerante e femminile. Spaziale, tollerante e femminile. Perché? Direi spaziale perché alcune delle regioni cerebrali che partecipano all'espressione della gentilezza sono coinvolte anche nell'allargamento del nostro spazio personale verso lo spazio esterno in cui si trovano gli altri individui. Direi tollerante perché le neuroscienze ci insegnano che i circuiti cerebrali della gentilezza nell'emisfero destro del nostro cervello si sovrappongono con quelli che sono preposti a orientare l'attenzione verso il nuovo e il diverso. E infine direi femminile perché questa mi piace molto, devo molto, dire. Sì. È stata davvero gentile. Ma femminile perché? Perché questi circuiti cerebrali sono naturalmente più sviluppati nel sesso femminile e sono sensibili all'azione di ormoni come l'ossitocina, ad esempio, che è quella sostanza che è coinvolta fra l'altro nei meccanismi del parto. Al contrario, i livelli di testosterone, un ormone prettamente maschile, sono correlati inversamente con la gentilezza e la generosità. Quindi andiamo sul femminile. Professore, prima di salutarla, io vorrei chiederle se oggi ha ricevuto una gentilezza o se è stato protagonista di un gesto di gentilezza, oltre che a venire qua da noi a Radio 24, che è sempre una cosa carina e gentile. Grazie. Sì, questa mattina presto in aereo una signora mi ha ceduto il suo posto, perché io avevo fretta di scendere prima e preferivo un posto anteriore, sì. E io ho ricambiato portandole la valigia, che era un po' pesante alla discesa dall'aereo lungo la scaletta. Bravo, bravo, grazie professore per essere stato con noi, ci sentiremo presto, buonissima giornata. Grazie a voi, arrivederci. Ed ora è tempo di salutare gli ospiti di oggi che gentilmente sono venuti a trovarci in studio. Abbiamo Pierpaoli Di Tedeschi, giornalista di Psicologie, ciao. Buongiorno, ciao. E abbiamo anche Alberto Pellai, il nostro papà di questa casa non è un albergo, nonché medico, ricercatore all'università di Milano, psicoterapeuta, papà, mi fermo, no? Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ogni momento è buono per riscoprire il piacere, anche il valore della gentilezza, ma c'è un appuntamento che ci invita a farlo ed è la giornata mondiale della gentilezza che si celebra proprio domani e a cui Pierpaoli del tuo giornale ha dedicato un ricco dossier. Abbiamo dedicato un ricco dossier che è la parte centrale del nostro giornale, il cuore vitale del giornale, e abbiamo dedicato un dossier di 18 pagine su questo argomento. Quindi un mini corso, a leggerlo già è come seguire un mini corso di gentilezza. Come seguire un mini corso di gentilezza, sia teorico sia anche pratico, perché diamo anche poi dei consigli, diciamo, da poterlo anche adeguare alla vita di ogni giorno. C'è, per questo sul finale abbiamo messo un test in cui poter valutare di che tipo è il proprio tipo di gentilezza, cioè se è una cosa che nasce davvero da un sentimento profondo, se invece è come talvolta succede un po' per convenienza, un po' per forma. Con un secondo. E Radio 24 ha aderito a questo invito a partecipare alla giornata della gentilezza come metro, e in linea con noi abbiamo il direttore Gianpaolo Roidi. Ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, io ho guardato le pagine che Metro dedica alla giornata mondiale della gentilezza e Gianpaolo mi ha veramente stupito e mi è piaciuto in modo particolare il commento di Luisa Muraro, filosofa, perché lei scrive è un po' come imparare un'arte marziale, imparare ad essere gentili, no? Un allenamento. Sì, invito tutti a leggere questo pezzo, se non lo trovate su Metro lo metteremo sul nostro sito metronews.it. Non so quanti di voi conoscano Luisa Muraro. Quando io le ho chiesto giorni fa di scrivere un commento sul tema della gentilezza, lei ci ha pensato un po', perché lei non è una persona istintivamente molto gentile e lo ammette e lo dice. Ha scritto un pezzo bellissimo dove racconta come la gentilezza sì, appunto, debba essere insegnata ai bambini, per esempio, come si insegna un'arte marziale. Ci sono delle regole molto precise e molto rigorose, e se le si segue si arriva alla fine a sentirsi meglio e a fare del bene agli altri. È un pezzo bellissimo. Grazie allora Gianpaolo Roidi per essere stato con noi. Io so che tu devi scappare, quindi gentilmente ti saluto. Guarda, ti ringrazio di avermi invitato. Io volevo dire che raccontare semplicemente che Metro, come sapete, è un giornale diffuso in alcune città italiane, abbiamo 1,5 milioni di lettori, abbiamo fatto questa cosa oggi non sapendo come sarebbe stata presa dai nostri lettori, che sono lettori che vanno molto di corsa, che leggono il giornale per pochi minuti la mattina. Bene, a quest'ora sono le 11 e quasi e mezzo. Sono le 11:21 e 15 secondi, per essere precisi. Sulla nostra casella di posta elettronica dedicata alle lettere, dove in genere a quest'ora della mattina ci sono già un centinaio di mail, bene, stamattina sono il doppio e quasi tutte si occupano di questo, toccano questo tema, ringraziano il giornale per essersi occupati di questo tema. Allora ringraziamo anche Psicologie che ha dato l'idea e ci ha invitato a sostenerla, e anche noi abbiamo già tanti messaggi al 349 238 6666, il nostro numero verde a disposizione 800 24 00 24. Grazie a Giampaolo Roidi, alla prossima, buona giornata. A voi, a presto. E allora Alberto, c'è anche un manifesto che io vorrei far ascoltare i nostri amici da casa e poi lo commenteremo insieme, un manifesto che naturalmente viene riportato sulle pagine di Psicologia. Andiamo! Noi crediamo che in un mondo che tende alla disumanizzazione abbiamo più che mai bisogno di gentilezza verso noi stessi, gli altri, il pianeta. Noi crediamo che essere gentili voglia dire essere rispettosi nei confronti di tutto quello che ci circonda, persone, animali, ambiente. Noi siamo convinti che l'era dell'aggressività e del ciascuno per sé sia tramontata. Noi crediamo che sia arrivato il momento di affrontare la vita con più dolcezza, più comprensione, più attenzione. Noi crediamo che essere gentili significhi essere parte attiva di un processo di miglioramento dell'esistenza di tutti. Noi crediamo che la gentilezza sia una forza interiore e una forma alta di intelligenza. Noi crediamo che essere gentili sia un valore contemporaneo. Noi crediamo che la gentilezza sia un'attitudine e come tale si possa apprendere. Noi crediamo che la gentilezza sia contagiosa e di conseguenza altamente efficiente. Noi siamo convinti che la gentilezza debba concretizzarsi in piccole azioni che contribuiscono a innescare un grande cambiamento. Adesso che abbiamo ascoltato il manifesto, cerchiamo però di capire di che genere di gentilezza siamo capaci. Si può essere gentili per convenienza, per forma, per empatia. Tra poco vi proporrò un breve test, voi proverete a rispondere. Alberto Pellai vi dirà quale tipo di gentilezza vi caratterizza. Candidatevi se volete partecipare e conoscere quindi il vostro profilo 800 24 00 24. Intanto noi testiamo il nostro guerriero. Questa è una trappola, buona giornata a tutti. Che gentilmente è tornato a trovarci, un guerriero gentile. Sì, non lo so, io prima Olivieri ha detto una cosa e già lì mi sono scattati mille pensieri, no? Perché nelle tre definizioni lui ha messo femminile. Sì. E questo crea un problema, perché se per lui il femminile significa qualcosa perché è un medico fondamentalmente, quindi l'ha spiegato da un punto di vista scientifico, per noi femminile significa un'altra. E quindi gli uomini tendono a volte a essere meno gentili semplicemente per apparire meno femminili. E quindi questo è un problema, perché è la parola che spaventa. E in un mondo in cui insomma l'egoismo lo vediamo, certo, e c'è un po' questo macismo ancora, tant'è vero che ormai molte donne stanno diventando maschili e quindi meno gentili. Io credo personalmente che la gentilezza sia semplicemente nel rispetto degli altri e la considerazione che si ha degli altri. Per questo, quindi, proprio perché lì si considera, si sorride, ma perché si considerano gli altri. Io, per esempio, credo di essere una persona gentile, però se la gentilezza viene pretesa in qualche modo divento proprio scostante e particolarmente maleducato, cioè cambio completamente l'atteggiamento. Vorrei sentire un parere di Alberto a questo aggettivo femminile che ha così toccato Stefano Gallarini. A me ha toccato in modo assolutamente diverso, invece io mi verrebbe da dire femminilizzatevi, nel senso più bello, più pieno, più vitale, più generoso del termine. Alberto, ma credo che dentro nasconda un po' il contrasto costante, forte, tra emozione ed azione, per cui il maschile è fortemente declinato sul concreto e perciò sull'agire, il femminile è fortemente declinato sul sentire, perciò dà priorità all'emozione. Credo che in questo momento a tutti noi, uomini e donne, è permesso proprio meticciare invece le dimensioni, quindi assistiamo a una nuova femminilità, una nuova mascolinità che ha imparato il meglio e a volte il peggio dalle rispettive reciproche posizioni degli altri. Pierparide, così chiudiamo il nostro giro di tavolo, perché poi io e Stefano abbiamo un appuntamento, una promessa, anche rispettare le promesse è una cosa, come no, di gentilezza. Certo. Concordo con il meticciato. Il meticciato, sì. Ti è piaciuto, vedi, abbiamo un sacco di aggettivi, Stefano. Noi ci eravamo lasciati con una promessa. Sì. Proprio ieri abbiamo parlato di una tecnologia, della tecnologia che ci fa gentilmente alzare dal divano e muoverci. Molti ascoltatori mi hanno scritto, ma allora torna, ne riparlate, perché c'è un una gran parte degli ascoltatori di Radio 24 che sono molto gallerineschi, no? Molto tecnologici. E che cosa vogliamo aggiungere di dettaglio rispetto a ieri, a questo videogioco? Sì, abbiamo parlato di camminare così. Ieri questo era il tema centrale e è uscita una nuova tecnologia, si chiama Kinect, una tecnologia per la console Xbox 360. È la prima volta che l'interazione del corpo, il movimento del corpo serve a interagire con il videogioco, chiamiamolo così. Quindi non più, come siamo stati abituati fino a ieri, avere in mano degli oggetti per poter interagire, come la Wii per esempio, la ricordate, sì. aveva quella specie di bilancio dove bisognava mettersi sopra, ma semplicemente il corpo. Questo ha permesso di creare un videogioco che si chiama Your Shape Fitness Evolved, che viene costruito, è un videogioco che serve a migliorare la forma fisica, quantomeno ad allenarsi, a muoversi, però potendo vedere il corpo in modo tridimensionale si ha l'impressione di avere veramente un personal trainer, perché e si accorge di ogni errore. E poi c'è questo personal trainer, che in modo è gentile quando sbagliamo. Sì, oppure è molto gentile, ecco. Si sceglie un uomo o una donna e molto gentilmente dice: non hai piegato abbastanza la schiena, il tuo ginocchio era troppo basso, il tuo squat non era tanto bello. Io sceglierò una donna. Adesso rapidamente, proprio ieri dovevamo dare il consiglio di lettura, sì. Che abbiamo abbinato ad una frase bellissima che ci è arrivata, sono arrivate tantissime, ma state pronte perché anche oggi sarete chiamati a mettervi in gioco per ricevere il consiglio di lettura. Quella di ieri è di Samuele di Firenze, che ci ha scritto: camminare lungo un sentiero di montagna, la vita per mano ai miei figli. La commenteremo poi con Alberto Pellai, ma adesso possiamo dire già ad Alberto e ai nostri ascoltatori che anche oggi potranno ricevere un consiglio di lettura in tema alla puntata di oggi, Elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, un libro che ha riscosso grandissimo successo, scritto da una storica, da uno psicanalista. Alberto, attiviamo i nostri ascoltatori a mandarci al 349-238-6666 un SMS in cui ci raccontate il gesto di gentilezza di cui siete stati protagonisti negli ultimi 12 mesi e che più vi ha colpito. L'SMS più speciale, questo gesto potete averlo ricevuto oppure averlo agito voi su altri. L'SMS che racconterà la cosa che più ci colpisce riceverà elogio della gentilezza. E mi raccomando, candidatevi per il test, si offre come, no? Sì. Stefano Gallarini, ma anche voi potrete riconoscere il vostro profilo di gentilezza. Restate con noi, 800 24 00 24. Gentilezza 800 24 00 24 e ne parliamo in occasione della giornata mondiale che si celebra domani, sostenuta da psicologie. Oggi abbiamo qui in studio Pierpaolo Tedeschi, giornalista di psicologia, Alberto Pellai e Stefano Gallarini, che abbiamo catturato perché vogliamo sottoporlo ad un test a cui potete partecipare anche voi per capire qual è il tipo di gentilezza che vi caratterizza. Ma soprattutto potete continuare a mandarci gli SMS 349-238-6666 con la vostra definizione, possiamo dire, o il gesto, un pensiero rivolto alla gentilezza, per ricevere a casa il consiglio di lettura di oggi grazie alla collaborazione con IBS. Il libro di oggi è un libro che ha riscosso molto successo oltreoceano, Elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor. Ma noi, sei pronto? Sì. Sì, io sono prontissimo. Guarda che Alberto è proprio, lo sai, è come sotto una lente di ingrandimento, Facciamoci ingrandire. Non deludermi. Non lo so. Perché hai delle aspettative allora se ti deludo, no? No, è bene. Quindi bene, no? Sì, non lo so. Allora, noi siamo pronti, tu sentirai la domanda con delle opzioni. Certo. Fatelo anche voi da casa, segnatevele, magari avete lo stesso profilo di Stefano Gallarini e poi ce lo dite, Stefano vi invita in trasmissione, facciamo una puntata di gentili. Andiamo. Secondo te, qual è la virtù che si nasconde dietro la vera gentilezza? L'attenzione? La discrezione? La generosità? L'intuizione? Pronto? Sì, io ne ho, figurati, non avrei una risposta sola. Le prime tre. Una devi darne su. Non me ne ricordo più. Attenzione, discrezione, generosità, intuizione. Attenzione. Andiamo alla seconda. Qual è per te il contrario di gentile? Egocentrico, avaro, arrogante, disinvolto. Vai. Egocentrico. Andiamo alla terza. Cosa pensi dell'adagio «La gentilezza non paga mai»? Puoi dire di conoscerlo bene. Dipende dalla posta in gioco. È un pensiero condiviso da molti che però non contribuisce a rendere il mondo migliore. Se lo dicono, sarà sicuramente vero. La terza è lunga, quindi non la ripeto. La ripete Alberto, così i nostri ascoltatori si riconoscono o no. Sentono. È un pensiero condiviso da molti che però non contribuisce a rendere il mondo migliore. Che profilo ha la gentilezza del nostro guerriero? Abbiamo già finito, è così corto. No, ne abbiamo un'altra, io avevo contato male, scusate, siate gentili, ma è l'età. Come alimenti i tuoi rapporti di amicizia? Condividendo emozioni e offrendo piccole attenzioni, rispondendo a tutte le richieste di aiuto che ti stanno a cuore, donando ciò che puoi senza aspettarti nulla in cambio, eliminando gli amici che non consideri più tali. Ale. Ho uno o tre. Per uno, sì, però tendenzialmente ho uno o tre, sono simili. Alberto? Allora, apparentemente simili. È lì che cade l'asino. Certo, lo so. Allora, questo test lo ritrovate in forma molto più ampia su Psicologie, vero? Sì, lo ritroviamo in forma più ampia, più approfondita. Mm? Ci sono molte più domande. Però noi abbiamo colto il cuore. Avete colto il cuore. Bene. Allora, qual è il profilo di Stefano? Allora, la gentilezza di Stefano è una gentilezza fortemente empatica, cioè sintonizzata sul sentire di chi ha di fronte, ed è molto generosa al punto che il consiglio che viene dato a Stefano dentro a questo profilo è: non sforzarti di essere sempre generoso con tutti, ma sii amabile con tutti e generoso invece con chi se lo merita. Insomma, Stefano, noi siamo contenti di te. È un piacere. Non ti ho delusa? No, assolutamente, ma ero sicura. Ero sicura. Adesso dove andrai, gentilmente, a lavorare? Sì, io volevo... Ti do questa frase, la leggerai tu dopo? Quando parlerai di cammino? No, leggila ora che facciamo... Perché devi premiare, vero? Sì, il consiglio di lettura di ieri l'abbiamo già dato. Però ritorniamo sul cammino, perché ci si incammina anche verso il cambiamento, verso la gentilezza. Mi era venuto in mente ieri, quando avevi parlato di cammino, perché la trovo straordinaria, Madre Teresa di Calcutta, che scrisse: quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone, ma non trattenerti mai dal camminare. Questa è una frase bellissima che possiamo in qualche modo utilizzare anche per la gentilezza nella nostra, no? Quando cerchiamo di cambiare, di diventare più empatici, di vincere, Pier Paride, ne parlate anche voi in Psicologie, quella strana ritrosia nell'essere gentili, perché in qualche modo abbiamo o paura di essere considerati dei deboli, o paura di essere considerati delle persone che sono gentili per un secondo fine. Stefano accennava al macismo. Ma si ha un po', no, la paura di essere considerata cortese, quindi un po' più fragili, che si... Vero? Invece, sì, è vero, però è un pregiudizio assolutamente da cancellare, perché è, diciamo noi, un sentimento da osare, un sentimento che è contagioso come un virus, in senso positivo chiaramente, e diciamo ci aiuta a stare meglio con noi stessi e ad aprire, diciamo, dei varchi con gli altri, e quindi, cioè, non è affatto quello che banalmente spesso si pensa, ma è uno strumento di forte ed intelligente. Alberto, abbiamo in linea con noi Gianni da Milano. Gianni, buongiorno. È caduto Alberto, però io farei ancora un piccolo distinguo. Lo chiedono i nostri ascoltatori, che ci stanno mandando delle definizioni bellissime, ne leggeremo poi alcune, tra la cortesia, la gentilezza del gesto, l'educazione, la gentilezza d'animo, la gentilezza come una dimensione, proprio un'empatia, o questo desiderio di mettersi in relazione con gli altri, che richiede autostima e fiducia nell'altro, perché per essere gentili con gli altri bisogna essere gentili con se stessi. E questa è una prerogativa? Sì, direi, proviamo a dare qualche proprio qualità della gentilezza e magari capire cosa non è gentilezza. La gentilezza potrebbe essere per qualcuno affettazione, ma non scatena niente dentro di noi, perché è semplicemente un approccio formale che segue un bon ton dei gesti, ma non entra in contatto invece con emozioni e sentimenti. La gentilezza potrebbe essere seduzione, si può essere seduttivi in modo gentile, ma di nuovo a uno probabilmente è un modo di usarti, e quindi nella seduzione non c'è gentilezza, perché la vera qualità della gentilezza, usando un modello che è quello dei sistemi motivazionali, la gentilezza deve essere cooperativa, cioè deve sentire che io e te siamo un in noi relazione. E conseguentemente dentro alla dimensione di gentilezza, proprio come un aspetto che ci fa diventare noi, lì scatta qualcosa che probabilmente il neuroscienziato poi chiama neurone mirror. Per me ha questi tre aggettivi. Cooperativa sta soprattutto perché è l'esatto contrario di agonismo o antagonismo, che è tutto ciò che non è gentile. Credo che debba essere indulgente, cioè debba saper accettare parti dell'altro che non necessariamente sono come ce l'aspettiamo, e quindi è rispetto della diversità. E l'ultima cosa credo che sia amorevole, cioè bisogna proprio avere l'amorevolezza dentro per poter essere gentile, altrimenti si diventa manieristici, formali, affettati, ma non si è gentili. Adesso noi salutiamo Stefano Gallarini, grazie, grazie, sei a voi, stato grazie davvero a te. Prezioso, e però ritorni a casa con un profilo della tua gentilezza che ti fa crescere la tua autostima. Sì, sono contento. Contento. 800 24 00 24, adesso andiamo a sentire la viabilità, faremo anche un saltino in Giappone, quindi diventeremo super internazionali. Intanto voi continuate a scriverci il gesto, il vostro modo di essere gentili, per ricevere a casa il consiglio di lettura di oggi, elogio della gentilezza, 349-238-6666. A tra poco. Siamo qui, siamo tornati insieme per parlare di gentilezza. 800 24 00 24. Ne parliamo proprio perché domani ci sarà la giornata mondiale della gentilezza. Pierparide, ci saranno delle voi suggerite anche cose speciali da fare o da iniziare a fare proprio in occasione della giornata mondiale? Sì, diamo una serie di suggerimenti che potrebbero talvolta anche sembrare banali, semplici, che però a nostro parere possono invece smuovere qualche cosa. Sono una decina di suggerimenti. Sì. Per esempio, offrire una tazza di caffè a un amico o un collega. Sì. Con cui magari ci si saluta e non ci si saluta normalmente. Sì, se questo non si spaventa, perché io volevo dirvi una cosa. Io ho notato, ne parlavo proprio con Alberto, che sia al lavoro, ma anche nel mio condominio, a me capita di salutare delle persone o magari di tenere la porta perché vedo la signora con il sacchetto della spesa, questi quasi scappano, ti guardano, per cui se offri un caffè ad un amico con cui, un collega con cui non sei magari tanto in buoni rapporti o che sfugge il tuo sguardo, rischi, ecco, quindi oltre a offrirla devi vincere questo timore, la diciamo, barriera che esatto, si questa davanti. Barriera, cioè utilizzare più i nostri neuroni specchio praticamente. Bravo, quindi è un doppio esercizio. Oppure per esempio invitare a pranzo un amico che magari non si vede da tempo, oppure un parente con cui magari non si ha una grande consuetudine, potrebbe essere un altro. Alberto, un consiglio per i bambini domani, giornata mondiale della gentilezza, parlarne con i bambini e invitarli a... Ma i bambini sono secondo me già di base molto gentili, direi invitateli a sorridere il più possibile, è proprio un gesto contagioso, aumenta il sorriso intorno a loro e certamente rende tutti più gentili. Abbiamo detto che avremmo fatto un saltino in Giappone e lo facciamo perché in linea abbiamo Paolo Soldano, giornalista freelance inviato in Giappone e autore di Giapponesi si nasce, Aletti Editore. Ciao Paolo! Buongiorno a tutti innanzitutto. Come, che ore sono lì? Sono quasi le 8. Quindi tu hai le 8 di sera? Sì. E sì, quindi sera. Tu sei quasi, ti stai quasi avvicinando ad un sushi? O lo mangiamo solo noi? Perché quando uno va all'estero trova dei piatti passati come italiani che poi in Italia non ci sono, allora mi è venuto il dubbio. Senti, cosa c'è di vero nella leggenda che vuole i giapponesi il popolo più gentile che esista al mondo? Beh, di vero c'è molto, almeno alla prima impressione che si ha quando si arriva qui da turista. Anche se poi ti devo dire la verità, si capisce che spesso la gentilezza non è altro che educazione più formale. Sì. In Giapponesi si nasce, appunto, racconto per esempio un episodio capitatomi più di 3 anni fa a Osaka. vagavo un po' perso per strada, ero arrivato da pochi giorni, quando mi si accostò una bambina di 6-7 anni di ritorno da scuola. Sì. Con la classica divisa, il cappellino giallo, le calze tirate al ginocchio, eccetera. Mi guardò e per salutarmi mi fece un inchino così rispettoso che me lo ricordo ancora. Forse quella è stata più educazione che gentilezza, ad ogni modo è stato un gesto molto affascinante. I gesti, tante volte uno dice più educazione che gentilezza, Alberto, ma si inizia dai gesti. Ma direi che c'è proprio un'armonia, una simmetria tra pensieri, emozioni e azioni che nel loro mix ben riuscito ci comunicano una gentilezza che è poi proprio una dote strutturale della personalità che dell'individuo che abbiamo davanti. E di che ingredienti è fatta la gentilezza dei giapponesi, secondo te, Paolo? Conoscendoli un pochino più da vicino. Sicuramente molto rispetto e, come dicevo prima, anche tanta tanta formalità che qualche volta a lungo andare può anche addirittura infastidire, perché si intuisce che in qualche modo non è spontanea. D'altra parte c'è da dire che è un piccolo difetto che ci si abitua a sopportare senza problemi. Senti, che cosa ti dicono i giapponesi degli occidentali? Come li vedono quando viaggiano ad esempio in Europa? Loro così gentili, composti, rimangono allibiti o infastiditi di qualche modo, magari non tanto gentile, di tanti noi, degli europei o di noi italiani in particolare? Di noi italiani in particolare sì, comunque in molti casi rimangono... Non sono però tanto gentili, scusami, è con tutta l'Europa vengono a prendere noi italiani, questi giapponesi. L'Italia piace molto e quindi è fortunatamente un paese molto visitato. Senti, quindi... e che cosa dicono, cos'è che non piace del giapponese agli italiani, degli italiani? Al di là delle file, che qui sono rispettatissime in ogni circostanza, in ogni situazione... e invece un po' meno nei paesi come l'Italia, mi parlano spesso del rapporto con i commessi dei negozi, anche se c'è da dire in realtà che qualche giapponese preferisce la relazione diciamo più casereccia e informale che si crea con gli italiani, e certo. in generale più spontanei appunto rispetto ai giapponesi. Paolo, quando torni in Italia non si sa. Sei metà italiano, metà giapponese. Mi piacerebbe vederti per vedere come mi potresti salutare, un mezzo giapponese e mezzo italiano. Grazie a Paolo Soldano, autore di Giapponesi si nasce, Letti editore. Grazie ancora, buona giornata, buon sushi, insomma buona serata per te che ormai... Grazie. Tra l'altro, Pierparide, proprio a Tokyo è nato il Movimento Mondiale per la Gentilezza. Parliamo del 1988, che è esportato in America e poi adesso raggruppa 18 nazioni. Ora raggruppa 18 nazioni, tra cui anche l'Italia. In Italia è stato importato nei primi anni del 2000, credo nel 2002, da una costola del Rotary Club di Parma, che domani farà anche una premiazione, premierà un volontario della Protezione Civile, Gianluca Siciliano, operativo nel gruppo di Varese. Sono stati loro, diciamo, a dare un po' il primo segnale, ecco. E Alberto, noi diamo il segnale perché dai tanti sms al 349-238-6666 che ci sono arrivati, noi siamo in dubbio su due. Che allora. Sono un testa a testa. Allora abbiamo deciso di scaricare la responsabilità su Pierparide. Te la senti? Leggi, Alberto. Che per il suo abbiamo giornale un minuto. Ha studiato a lungo la generosità e la gentilezza, scusatemi, deve decidere tra... Questo messaggio di Gabriele: settimana scorsa sono stato punto per ben 3 volte da un'ape, un dolore immenso. La poverina è rimasta più tramortita di me, ma poi l'ho posata su un fiore e ha ripreso a volare. Ma c'è un altro messaggio che ci è molto piaciuto, di Leonardo. Ho compilato una cartolina di un concorso a premi con il nome di mia sorella e le ho fatto vincere una crociera di una settimana per 2 persone. Pierparide, l'ape, ma, ape o crociera? Direi l'ape, anche se mi sembrano entrambi un po' masochisti, un pochino. Sì. C'è un po' di masochismo nella gentilezza. Chiudiamo con questa domanda e intanto l'ape può ricevere a casa il consiglio di lettura di oggi grazie alla collaborazione con i PBS, l'elogio della gentilezza. Io vi saluto, con Alberto torniamo gentilmente, voi gentilmente tornate a trovarci domani a mezzogiorno, questa casa non è un albergo. Buonissima giornata, siate gentili, fate un sorriso in più, regalatelo. Buona giornata.